Nico. Alchimia del fallito, ora gli alzo il terzo dito. Prima stavo sempre zitto, ora gli rompo l'udito. Ora che sono salito, osservo il tuo sguardo appassito. Ora che ho fatto quello che pensavi che non facevo, rimani allipito, perdi attrito. Questi rapper che parlano di droga per me, buon appetito. Fai schifo come un cadito, ho finito, non sono mai fuggito. Però sono impazzito, mi sono imbottito. Poi sono rimasto impietrito, Nico inaudito, l'ho inseguito, un percorso infinito. Ora sono arrivato, ti invito. Ora ti dico, sei un politico, sei un politico, sei un politico, ehi ehi, sei un politico, sei un politico, sei un politico, sei rimasto al paleolitico. Io non imito, creo, manda a fanculo il galateo, tanto vinco io il torneo, no liceo, so solo dire cici yeo, cici yeo, cici yeo, cici cici yeo, cici yeo, cici cici yeo, ehi.